Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno, ci siamo e come stiamo bene questo sabato pomeriggio con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è, come sempre, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E poi, come sempre, nella terza ora, dalle 17 alle 18, sempre in diretta, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma gli ascoltatori più attenti lo sentiranno che non c'è proprio questa atmosfera di studio, che siamo all'esterno, siamo al Salone dell'Auto di Torino, siamo al Parco Valentino. Non vi dico dove siamo esattamente perché ci trovate, abbiamo una grossa postazione tutta verde, non potete non trovarci. Allora, se invece volete trovarci con le nostre solite coordinate, il numero per i vostri sms o anche per i vostri messaggi WhatsApp è 349-238-666. Però c'è anche il mio account di Twitter che è @MartaCagnola o anche l'hashtag #CancellettoISDV, come il sabato del villaggio. Ovviamente il tema conduttore di questo sabato, beh, è l'auto. Beh, è prevedibile, siamo al Salone dell'Auto di Torino, io ho visto già delle auto bellissime, ma lo scopriremo tra poco. Ma andiamo anche a sentire di cosa parleremo nella prima ora che passeremo insieme. Tutte le tecnologie legate all'auto con Enrico Pagliarini. Come mangiare in viaggio con il nostro gastronauta Davide Paolini, ovviamente anche i consigli al cinema per il fine settimana, sempre nella prima ora del sabato del villaggio. Ma partiamo subito facendo un viaggio qui al Salone dell'Auto di Torino. Get out of my dreams, get into my car. Esci dai miei sogni e entra nella mia auto. Chissà se si ricorda questa canzone di qualche annetto fa, 88, beh, insomma, però era anche in un bel film, insomma, beh, insomma, chissà se la ricorda il nostro conduttore di hashtag Autotrasporti, tutti i lunedì alle 13.45 su Radio 24, ma soprattutto espertissimo del tema e soprattutto frequentatore del Salone dell'Auto di Torino già da qualche giorno, Andrea Ferro. Ciao Andrea. Ciao Marta, ciao a tutti. L'ultima volta che ci siamo visti parlavamo di barche. Beh, voglio dire, è sempre movimento, viaggio. Esatto, diciamo, sempre la mia vocazione maturata con la radio. Allora, raccontami un po' cosa succede qua. A parte il fatto, diciamolo, c'è un sole bellissimo. Io avevo guardato le previsioni meteo, avevo paura, invece no, oggi splendido. Smentite le previsioni di inizio settimana. Eravamo pronti ad attendere, diciamo così, un'esplosione di tuoni di lampi, così dicevano le cartine. E invece apprezziamo questo sole, devo dire un po' pallidino rispetto ai giorni scorsi, però sempre convincente rispetto alle nuvi che ogni tanto hanno accompagnato questi primi giorni del salone. Allora, mi chiedevi cosa è successo. Beh, è successo un po' di tutto e c'è un po' di tutto, nel senso che sentiamo questo... anche dei clacson, sì, giustamente. È chiaro, voglio cosa dire, vuoi sentire dire. Mai al Salone dell'Auto, giustamente. Effetti di fondo perfetti. Li abbiamo messi noi e Pietro in regia. No, abbiamo due che sono il clacson a chiamata, no? Sì. Svegliamo il trucco. No, sì. Allora, cercando di essere un filino più serio, diciamo che c'è innanzitutto tanta curiosità e questo può segnare anche la riscoperta aperta del gusto dell'auto, che forse negli ultimi tempi, complice la crisi, complice un'atmosfera generale, diciamo così, non completamente positiva, si era un po' perso. E quindi, girando, ormai sono giorni che faccio chilometri tra gli stand, un po' per cogliere le sensazioni, le emozioni, i pareri dei visitatori, diciamo che sono due categorie: sono quelli che guardano la macchina come cardiochirurgo che vivisezione ogni particolare, certo, che diciamo la sottopone ad una specie di tac. L'esperto c'è sempre. Certamente, anzi, ce ne sono parecchi qua. Sì. Però il bello di questo salone rispetto a una manifestazione, diciamo, classica, chiusa all'interno di un quartiere fioristico, è che c'è un po' di tutto, quindi è un visitatore abbastanza vario, diciamo anche la cosiddetta casalinga di Voghera, con rispetto alle casalinghe. Casalinghe di Torino. Assolutamente, ci mancherebbe, anche per i vogheresi. Diciamo l'automobilista medio, che invece è attratto così dalle possibilità che la tecnologia offre, e ora siamo fin troppo sommersi, a mio avviso, da mille opzioni. Parleremo con Enrico Pagliarini, che è lì, che sta zitto ma ascolta e ride sotto i baffi che non ha. E poi digita, perché lui se non digita non è... È lì che ride. Ecco la risata. Abbiamo sentito la risata di Enrico Pagliarini, che finge di non... troppa tecnologia, poi rispondi dopo. Rispondi dopo, Enrico. Dopo. No, vabbè, allora diciamo la mia cartolina, perché io faccio cartoline qua a Torino, la mia cartolina del giorno è quella appunto di una platea differenziata su queste due categorie di fondo, come ti dicevo, con diciamo così l'automobilista medio, che invece trae, diciamo, suggestioni per immaginare l'auto del futuro, anche perché questo è il grande tema di questo salone. C'è stato un concorso per giovani designer, ci sono state varie iniziative giusto per immaginare l'auto del futuro, e da quello che io ho potuto intendere c'è un ritorno, diciamo così, al gusto della linea del passato, anche se poi chiaramente è difficile contemperare le esigenze dell'aerodinamica, della tecnologia con quello vorremmo che è stato. Tutti come il frigorifero vintage ma moderno, perché obiettivamente il problema dell'auto, l'auto moderna, è che c'è una sostanziale omologazione. Ora obiettivamente, quando io ero bambino, riconoscevo una francese da un inglese, da un italiano. Stai parlando di No. Beh, questo va binomio, questo è banale. Salutiamo la signora Ferro, che c'è stata da casa, ovviamente. Anche Jacopo e Davide, posso? Cari, belli bambini, ecco, di Andrea. Questo quadretto lo prendiamo. Dicevo, la riconoscevi, poi ora obiettivamente hai qualche difficoltà se non sei un esperto. Certo. Ecco, c'è, diciamo così, la tendenza a voler rinnovare questo marchio, questa linea. E diciamo che noi italiani siamo molto probabilmente quelli più capaci di poter dare un'impronta particolare, un'originalità, un tocco, diciamo così, di eleganza. Peraltro tutto questo avviene in una città molto elegante, quale Torino, che io adoro, estremamente bella, bellissima, elegantissima, una di quelle città che si scoprono un po' tardi, ma come noi, che ci scopriamo un po' tardi, sì, poi conquistiamo. Mettiamo un po', ma poi conquistiamo, non lo so, parla per te, visto che ormai mi stai coinvolgendo in problemi familiari. Ma hai detto, Andrea, che qui si è cercato di immaginare l'auto del futuro. Allora, quali sono le caratteristiche di quest'auto? Va da sola. Ecco, però vedi, anche l'auto che va da sola a me fa un po' paura, ma non perché senz'altro sarà fatta in maniera da non provocare incidenti, non sto mettendo in dubbio la tecnologia. Quello che a me fa paura è che viene meno il fattore umano. Obiettivamente il piacere della guida è un piacere. Io ti confesso, sono una grande appassionata di guida, mi piace tantissimo. Non sono un'appassionata di velocità, sono un'appassionata di guida, cioè quindi di intervisto, cioè tu ti rilassi quando guidi? Io mi rilasso tantissimo quando guido. È bellissimo. Guido tanto. Gli altri automobilisti si rilassano a vederti o si preoccupano? No, si rilassano, perché sono una pendolare, sono una che fa tanti chilometri. Tanti chilometri. Parliamo però anche della grande festa, questo è un salone diffuso. Oggi e anche domani, ricordiamo oggi anche domani. Stasera, ieri sera con Enrico Pagliarini. Avete fatto notte, l'una a parlare di tecnologie. Io sembravo il cagnolino sulla macchina, sai? Perché perché avevo grandi problemi a tenere. Devo dire che al primo giro di vira io mi sono fermato, qualcuno ha proseguito. Mm-hmm. Era l'una, però no, a parte queste considerazioni assolutamente insignificanti. Però c'era ancora movimento. Esatto, c'era molta gente. Tanto che posso dire che ho parlato stamattina con Andrea Levi, che è il patron della manifestazione. Mi ha detto che alla luce del successo di ieri sera, stanotte non chiuderanno neanche le luci. Ah, quindi avanti ad libitum. After hour, tu che sei giovane si dice after hour. After hour, after si dice così? E posso anche dirti che nella seconda ora del Sabato del Villaggio avremo anche gli after hours. Ah, già, e siamo in tema, non lo sapevi, siamo in tema. Tu senti, Torino, noi la immaginiamo sempre legata all'auto, ci immaginiamo che i torinesi siano appassionati di auto e che ce l'abbiano un po' nel DNA. Io lo chiedo anche a una persona che ne sa molto, che è il direttore del Museo Nazionale dell'Automobile, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno Rodolfo Gaffino, buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Allora, questo amore per l'auto, lei è d'accordo con me? C'è un grande amore per l'auto che è ritenuta non solo un oggetto, un mezzo di locomozione, ma fa davvero parte della nostra cultura. È il mezzo che ci ha permesso di percorrere l'evoluzione, quindi di conoscere nuove culture, quindi di poter incontrare e vedere nuovi paesaggi, quindi si è ampliato molto la visibilità, abbiamo potuto viaggiare di più, quindi è servita come mezzo di trasporto per portare le materie prime ai mercati, eccetera. Quindi c'è stata una parte del trasporto, una parte di divertimento. Ci sono delle utilità, poi come tutte le cose c'è odio e amore. Poi a un certo momento l'auto nel suo percorso, essendo le industrie, ci siamo resi conto, aumentando il numero, ha creato anche degli scompensi, certo, certo, urbanistici, eccetera. Quindi chiaramente se uno percorre la storia dell'auto e arriva ai tempi nostri, è arrivato anche un momento di meditare e di vedere un po' come dovremmo affrontare il terzo millennio. Lei ha detto percorrere la storia dell'auto. Cosa si vede al Museo Nazionale dell'Automobile? Cosa possiamo vedere? Si vede proprio l'inizio, cioè dalla Genesi, da quando l'uomo ha pensato di rendersi più indipendente nel viaggio, quindi non legato all'animale che trae nella carrozza, il quale a sua volta si affatica, ha bisogno di mangiare, e quindi ha delle autonomie limitate, quindi ha sempre studiato delle alternative per sostituire il traino animale. Quindi nel nostro percorso c'è questa storia, quindi quando i cavalli abbandonano la carrozza e da quando l'uomo con il suo ingegno ha applicato dei sistemi di energia alternativa, ha iniziato con il vapore, ha iniziato con l'energia elettrica, quindi le prime macchine elettriche, e poi chiaramente l'ha fatta da padrone il motore termico, cioè il motore scoppio, quindi certo, certo. Questo percorso. Poi l'oggetto si è evoluto, questo motore a sua volta è stato utilizzato per l'aeronautica e dopo la prima guerra mondiale praticamente l'evoluzione dell'auto è stata anche tecnologica, è stata industriale, perché se all'inizio la macchina era per pochi, poi dagli anni 30, dagli anni 40, con le prime industrie, la macchina comincia a avere le piccole produzioni. E quindi nel museo riusciamo a ricostruire questa storia, che è un po' anche la storia nostra, che è anche un po' la storia del Novecento fino ai nostri giorni, anche un po' la nostra storia d'Italia. Museo dell'Auto a Torino dove, direttore? È Corso Unità d'Italia 40. Corso Unità d'Italia 40, anche perché noi siamo ancora qua, Andrea Ferro è ancora qua, ormai veniamo a visitarlo. Grazie direttore, grazie al direttore del Museo dell'Auto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Rodolfo Gaffino, buona giornata. Anche grazie a voi, ti aspetto al che museo. Bello. Certo, arriviamo. Io sono qua fino alle 18, ahimè, perché no, io fino alle 18 di domani. Fino alle 18 di domani, quindi hai tempo per andare a fare una passeggiata al Museo Nazionale dell'Automobile. Stavo guardando adesso il sito, è veramente molto bello. Sono le 15:14. Solo scusami, ti rubo 10 secondi. Sì. Mentre stiamo parlando, visto che facciamo i cronisti, bisogna dire quello che sta avvenendo. Certo. È in corso per Torino la parata delle grandi signore. La parata delle grandi signore. 170 modelli unici nel senso non unici perché hanno fatto solo quelli, ma costituiscono la storia a quattro ruote dell'ingegno, della tecnologia, delle forme, tu dello sai stile. Che sei tu che continui a paragonare le auto alle donne, eh? Vabbè, sei tu Andrea. Allora, una brevissima pausa perché sono quasi le 15:15 e ci sono tutti quelli che sono davvero in auto, che vogliono sapere qual è la situazione di strade, autostrade. Puoi rimanere con noi anche, Andrea, se non hai da fare, perché adesso chiamiamo in causa Enrico Pagliarini. Allora mi diverto. Allora ti diverti. Allora, traffico e ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Beh, i Beatles ci stanno sempre bene, lo so che magari è una scelta un po' scontata, Drive My Car, parlando di auto, sempre in diretta dal Salone dell'Auto di Torino, che c'è fino a domani, al Parco Valentino, bellissimo, il sole è un po' sceso, ma ragazzi non vi preoccupate che la giornata è sempre bella. Però era pallido, tu. Ma la giornata è sempre bella, quindi se siete a Torino dintorni, poi ha appena detto Andrea Ferro che non spengono le luci stasera. Assolutamente. Ieri Andrea Ferro ha fatto l'una, stasera farà almeno le due qui no, a Torino. Assolutamente, no, io faccio le 23 in genere, perché poi alle 6:30 c'è la scuola. Quindi. Ah, va bene, allora. È finita, ora, però. Auto, come tema conduttore di questo sabato del villaggio, in diretta fino alle 18, c'è Enrico Pagliarini che ride, non so perché ride. È divertentissimo, buongiorno. Perché? Cosa ti diverte? No, perché siete divertenti. Comunque, sì. Le canzoni che tu hai messo confermano questo legame che Ferro ha sottolineato più volte tra le donne e le macchine. Io Ferro non ho sottolineato perché prima get out of my dream, get into my car, maliziosamente la signora Marta Cagnola ha fatto tutto, baby you can drive my car. Allora Enrico Pagliarini, Andrea Ferro ha detto troppa tecnologia, allora tu che sei il nostro nume tutelare. No, troppa poca tecnologia. Allora, sì. Allora, fra qualche anno, sì. Io non so, quelli che sono nati in questi anni, o anche 5-6 anni fa, probabilmente non prenderanno più la patente, perché come ha detto Elon Musk, magari succedono le cose prima in altri paesi, non in Europa, dove guidare, dove girare per la strada è un po' più complicato. Elon Musk, che è il fondatore prima di PayPal. Ho capito, Elon Musk, ok. E poi ha detto, beh, PayPal è una roba vecchia ormai, l'ha venduta e si è messo a fare cose un po' più moderne, cioè la Tesla, quindi automobili del futuro, già di oggi, comunque elettriche. E anche SpaceX, che è una società che lancia razzi nello spazio, satelliti e cose del genere. Ha detto, nel futuro anch'io per il razzo soprattutto. Nel futuro sarà stasera parte tra l'altro un razzo il più potente. Dove, qua? No, Cape Canaveral, no, però no. Consiglio se volete guardarvelo alle 19:30, una roba del genere, se il tempo regge. Però, chiusa la parentesi, Elon Musk ha detto sarà illegale guidare. Illegale? Sarà illegale, certo, perché nel mondo di automobili automatiche, che fanno tutto da sole ed evitano gli incidenti, guidare sarà illegale, perché tu sei un uomo, ti sbagli e fai gli incidenti, quindi sei un pericolo pubblico. No, sì. Vabbè, quindi, non ci posso credere, però per ora godiamoci ancora il fatto che... Sì. Allora, tecnologia e auto... Allora, io do sempre i compiti a Enrico Pagliarini. Direi questa volta tecnologia e auto. Sentiamo. Due capitoli. Primo capitolo. Aspetta, rigiro la paglia. Primo capitolo. Aspetta, non mi scrivi. Primo capitolo è tutto legato allo smartphone. Oggi certo. Facciamo un sacco di cose con lo smartphone. La nostra vita è legata allo smartphone. Posso dire banale. Poteva anche darci, però sentiamo, diamogli il beneficio del dubbio. Quasi tutti i produttori di automobili, ormai anche su automobili di fascia medio-bassa, hanno dei sistemi per connettere lo smartphone con l'automobile. Uno dice, ma che cosa ci faccio? Allora, principalmente uno, ad esempio, che vuole ascoltare i podcast di Radio 2024. Di Radio 24 in generale, può collegare lo smartphone all'automobile. Dallo smartphone fare streaming, quindi mettere in play una delle nostre trasmissioni e riascoltarsi una trasmissione in qualsiasi fascia oraria. Oppure i vari sistemi per ascoltare la musica in streaming, Spotify, eccetera. Sai che lo faccio addirittura io questo. Vedi? Non è quindi una cosa così. No, però diciamo che in questi anni le automobili stanno popolandosi di questi sistemi. Già da un po' di tempo esistono dei sistemi proprietari, quindi ogni produttore di veicolo ha la propria soluzione per connettere lo smartphone per fare sostanzialmente poche cose, quindi pilotare lo smartphone dal volante, cioè se io faccio partire, mettere in play uno dei podcast, uso il podcast per sì, come esempio, oppure una canzone, posso farlo direttamente, quindi in modo molto più sicuro, certo, non dal telefono perché mi distraggo e magari faccio un incidente, sì, ma lo faccio dal volante, quindi con lo sguardo sulla strada, le mani sul volante, posso pilotare e comandare lo smartphone dal volante. Però in questo 2016 e nel 2017 alcuni sulle fasce medio-alte, quindi macchine molto costose, l'hanno già fatto magari lo scorso anno, però quest'anno e nel 2017, poi alcuni un po' in ritardo nel 2018, stanno uscendo su quasi tutti i modelli due cose che cito. Una si chiama CarPlay e l'altro si chiama Android Auto. Che cosa sono? Sono software per connettere in modo un po' più sofisticato sia i prodotti Apple, quindi CarPlay è Apple, sì, sia i prodotti Android. Lo sai che qualcuno che ci sta mandando il messaggio e Windows Phone? Perché è sicuro che arriva il messaggio e Windows Phone. Sì, però gara persa, cioè almeno non esiste una soluzione sentenziata. Purtroppo... siccome so che il messaggio arriva e Windows lo prevengo, però devo dire che Windows nel mondo, poi in ogni paese le percentuali variano, in Italia siamo un po' più la percentuale è un po' più elevata, però ormai la percentuale di diffusione di Windows Phone è al 2%, quindi... insomma, stiamo parlando di una minoranza, quindi game over, le case automobilistiche non prendono nemmeno in considerazione, quindi due mondi che fanno la telefonia mobile e quindi le soluzioni che vengono proposte sul mercato dalle case automobilistiche in accordo con Apple da una parte, con Android dall'altra, con Google dall'altra parte per Android, sono queste due. Hai detto connettere in maniera più sofisticata per cosa? Allora, ecco, perché per questi brava, due perché già mi sembra che possiamo far tutto, però evidentemente no. Infatti non si possono far tutte le cose. Io provo perché, con Poma, troppo. Perché non si può fare tutto? Perché abbiamo portato uno che tecnologia Andrea sì. Ferro, lui camion, autotrasporti, hashtag autotrasporti. Ho preso la patente. Guarda che i camion saranno i primi a diventare automatici, soprattutto in autostrada. Ma ci sono già nelle Nevada sperimentazioni. Ora sono preparato su questo. Comunque, per farci che cosa? Allora, ci sono una lunga lista di applicazioni che sono state sviluppate proprio pensando al mondo delle automobili. Allora, la cosa più semplice è fare quello che già facciamo con i sistemi proprietari delle automobili, quindi ascoltare audio, cosa molto facile. Però queste applicazioni, sia per CarPlay che per Android Auto, pensate proprio per questi sistemi, sono semplificate o comunque sono modificate per essere più sicure quando noi le visualizziamo e le utilizziamo sul cruscotto dell'auto. Magari sono le stesse applicazioni. Non è molto importante. Magari sono le stesse applicazioni che utilizziamo sul nostro smartphone, ma all'interno di questi ambienti che sono proprio pensati per l'automobile sono magari semplificate, quindi devo fare meno operazioni, magari un po' più grandi, un po' più visibili, e quindi sono più sicure, perché ovviamente la sicurezza è un elemento molto importante per quando siamo in automobile. Enrico, però tu sei partito dicendo non guideremo più. Noi avevamo fatto una puntata in prospettiva. Sì. Avevamo fatto una puntata tempo fa parlando di auto che si guidano da sole. Adesso se ne parla tanto, su questa settimana se ne è parlato tantissimo sui giornali. A che punto siamo su questa cosa? Allora, tecnicamente le automobili che guidano da sole sono di fatto pronte. Io sono stato su un paio di automobili che praticamente fanno tutto da sole. Mancano le leggi, tutta una serie di regolamenti, ad esempio sulle assicurazioni. In questi mesi le assicurazioni e i produttori di automobili stanno dicendo la loro e stanno prendendo posizione, però è tutto un ecosistema da creare. Poi tecnologicamente ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da mettere a posto, perché diciamo soprattutto dove il traffico è molto caotico, tipo in Italia, tipo a Napoli. In città come la mia città, Genova, cosa succede? Ah, Genova è un caos. Ah, ecco, non ci saranno mai. No, non è vero che non ci saranno mai. Ci saranno nei vicoli. Sì, certo, questo è un problema, però guarda, le macchine, intese come il software e l'hardware, non solo le automobili, sono più brave degli uomini. diamogli un po' di tempo, ma vedrete che nel giro di pochi anni assolutamente saranno molto più capaci di guidare anche a Genova rispetto agli uomini. Ma non c'è dubbio su questo. Sì, no, no, ora sto scherzando, è chiaro. Oggi ci sono ancora dei limiti, però se noi, e qua apro il secondo capitolo, sì? Se noi guardiamo a tutto il mondo dei sistemi di assistenza alla guida, che si chiamano, lo dico così tu, sì, no, prendi nota sul tuo libro, allora, si chiamano Advanced Driver Assistance Systems, sì, no, ma l'inglese sistemi avanzati di assistenza alla guida per ADAS. Okay. Ok. Che cosa fanno questi sistemi? Ti assistono in alcune operazioni, tipo la frenata. Cito questo perché penso che sia ormai il più popolare, perché costa veramente poco. Ci sono su alcuni modelli che costa 300-400-500 euro. Sì, cioè quello un optional medio. Cioè, allora, uno degli optional più venduti in Italia è il tettuccio trasparente, che costa in alcuni modelli anche 1000 euro. Sì, okay? Sì, sì. Allora, perché? Boh, non lo so. Non so perché la gente piace questo. Non lo so, mio padre ce l'ha perché ce l'aveva l'auto e non l'ha mai e lo tiene chiuso. Allora, pensate, un senso però di vacanza. Non lo so, però è chiuso. Non lo so, non lo so. Però l'idea di poterlo aprire, magari. Pensate però quanto molto più utile del tettuccio trasparente è un sistema che frena automaticamente. Accidenti. E il sistema è molto efficace. Io ce l'ho, lo uso, mi ha salvato la macchina. Qual è lo spirito di questo sistema? Allora, questi sistemi funzionano con alcuni tipi di sensori, ma principalmente con un sensore radar che controlla il veicolo che ci precede. Se il veicolo che ci precede o comunque noi arriviamo troppo velocemente vicino, il sistema subito ci manda un messaggio sonoro di allarme. Quindi suona e quindi magari io se sono distratto o addirittura un colpo di sonno posso svegliarmi. Ma a seconda dei sistemi, entro 1-2 secondi interviene automaticamente e frena la macchina. Ma frena la macchina vuol dire proprio che frena. Quindi, sui mezzi pesanti è obbligatorio su quelli è di nuova immatricolazione, sì, a livello europeo. Esatto. Sulle automobili non è ancora obbligatorio, ma io penso che nel giro di qualche anno lo sia. Però veramente invito le persone a valutarlo quando acquistano un'auto nuova, perché il sistema è molto efficace e soprattutto in molte situazioni, in città. Allora, stiamo parlando di un sistema che a seconda dei modelli, a seconda dei produttori, funziona fino a 50, 60, 70 km all'ora, e parliamo di frenata rispetto ad un ostacolo fermo. Quindi okay. Poi ovviamente vale anche la distanza e la velocità relativa, quindi anche certo, quando siamo in movimento. Però e qui apro il secondo aspetto di questo sistema, che funziona, sì, che funziona più o meno sempre con lo stesso radar o comunque con dei laser. Però il radar è molto efficace perché funziona in qualsiasi tempo atmosferico. Se c'è la nebbia, fantastico. Andare in autostrada con questi sistemi, te ne freghi della nebbia. Poi ovviamente devi farlo con relativamente, certo, con intelligenza, non è che vai ai 200 se c'è la nebbia, però sei un po' meno preoccupato, certo. Sì, sì. Allora, ecco, il secondo aspetto è, mentre il laser no. Il laser no, se c'è tempo cattivo ha difficoltà. Però questi sistemi funzionano o con un solo tipo di sensore, oppure con una coppia di sensori che funzionano assieme. Ci sono anche quelli che hanno una videocamera, però poi potremo parlare a lungo. Il secondo aspetto di questi sistemi che possono in città frenare automaticamente sono sistemi di io cerco sempre di tradurre in italiano perché tutti hanno termini inglesi, sistemi che mantengono la velocità costante e la distanza di sicurezza. Ed eventualmente, se il veicolo che ci precede rallenta, il sistema rallenta anche la mia automobile. Però è bravo, bravo. Molto bene. No, anche perché mi spiega bene. E poi, ora obiettivamente, no. Andrea, tu dicevi troppa tecnologia, però ci ha parlato di tecnologia tutta per la sicurezza. Sì, quindi, ma poi queste ottimo, sono molto utili, cioè, e devo dire che costano anche molto poco. E spesso questo sistema che mantiene la distanza di sicurezza e rallenta o addirittura frena l'automobile e il sistema di frenata d'emergenza sono venduti in coppia, quindi è lo stesso pacchetto di sensori che fa la stessa cosa. Quindi tutti coloro che stanno comprando un'auto forse tengano d'occhio a questi optional, oltre ovviamente alla radio DAB, certo, che serve per sentire la Digital Radio, Radio 24. Sono le 15.30, quindi una brevissima pausa. Io intanto ringrazio Andrea Ferro per essere stato con noi. Andrea, quindi tu ti godi il Salone dell'Auto fino a domani? Assolutamente. Vai a vedere la sfilata o è già finita? Non lo so. Dovrei raggiungere Venaria di corsa. Accidenti, forse da qui allora è un po', complesso. Grazie Andrea Ferro. Io voglio ricordare hashtag autotrasporti lunedì 13.45. Confermo. Grazie mille. Noi ci troviamo tra pochissimo, una breve pausa. Il sabato del villaggio. We'll do it all. All'ascoltatore che mi ha detto che avevo scelto delle canzoni un po' vecchiotte, anzi che ha detto che ero un po' vecchiotta io, allora un po' più recente, Snow Patrol, dai, un pochino più recente, però sempre in tema di auto, questa era Chasing come Cars. Si permette, ma dico io, ma dico io, ma dico io. Allora Enrico, stavamo parlando di auto e tecnologie e ci hai citato delle tecnologie estremamente interessanti che hanno a che fare soprattutto con la sicurezza, cioè degli optional, diciamo così, ed è un ottimo consiglio per tutti coloro che stanno scegliendo un'auto adesso e scegliendo come accessoriarla. Esatto. Poche centinaia di euro, magari in alternativa a qualche sfizio che poi, del quale poi ci stanchiamo, e invece tipo cosa la decisamente vernice metallizzata, no? Uno potrebbe scegliere un'altra cosa, oppure contratta col concessionario e se lo fa regalare questo optional. Ah, hai ragione. Visto che c'è un po' di crisi, hai ragione. Magari il concessionario mi piace questa idea. Vuole vendere. Tra l'altro c'è una nostra ascoltatrice che è anche un'amica del Twitter, che è @212, che dice lei ha comprato, credo, una Honda Jazz, monta tra virgolette Android e come navigatore usa Waze, che io amo molto, app di cui abbiamo parlato. È una società israeliana acquistata da Google e che però è ancora indipendente, funziona molto bene e essendo milioni e molte le persone che in tutto il mondo hanno Waze, tutte queste persone anche senza saperlo comunicano i dati della loro posizione, di quanto del luogo dove sono, della velocità che stanno facendo, eccetera. Tutti questi dati vengono condivisi e automaticamente Waze sa quanto traffico, ad esempio, c'è, se c'è un ingorgo. Io lo accendo tutte le mattine perché così scelgo la strada da fare in base a. Allora, devo dire che l'altra grande comunità che ha dati paragonabili è TomTom, perché ha una base installata molto, molto elevata. Gli navigatori più recenti hanno anche la connettività che viene venduta assieme al prodotto e tutti questi dati vengono messi in condivisione e ti vengono fornite delle informazioni su quanto traffico c'è reale, perché traffico reale è in tempo reale. Quindi molto anche utile. Questo è uno degli aspetti della tecnologia che si possono ormai assortire con l'auto. Altri capitoli? Allora, ti è mai capitato di essere in autostrada, di effettuare il sorpasso, mettere possibilmente la freccia? Purtroppo ci sono un sacco di persone che non mettono la freccia. Non tantissimo perché io ho una piccola utilitaria, comunque, a metano. Metti la freccia, però a un certo punto ti accorgi che di fianco a te c'è un'automobile. Urca, sì. Allora, si chiama punto cieco. Certo. Allora, negli ultimi, direi, mesi, anche qua, le auto più sofisticate ce l'avevano già qualche tempo fa, però diciamo negli ultimi mesi, su un numero di modelli crescente c'è come optional il sensore del punto cieco, che ti avvisa se tu appunto mentre stai facendo il sorpasso. Tipicamente questa è la situazione in cui questo sensore interviene. Poi ci sono cose analoghe su alcune automobili che ad esempio ti avvisano se tu sei parcheggiato, stai uscendo da un parcheggio e sta arrivando o un veicolo o una bicicletta. così eviti di al supermercato mentre tu stai facendo passa il carrello. Il carrello sempre. Ci sono automobili che hanno questo tipo di sensore. Stessa situazione, siamo in autostrada, ci distraiamo e l'automobile va o a destra o a sinistra e sconfina nella corsia adiacente. Allora, oppure nella corsia d'emergenza se siamo nella prima corsia. Allora, ci sono dei sistemi che anche qui o ci avvisano o addirittura intervengono sullo sterzo e mantengono l'automobile in corsia. Tipicamente questi sistemi sono accoppiati ad una telecamera, una videocamera che vede la striscia e quindi ovviamente funzionano dove le strisce sono ben disegnate. Certo, certo. Se non ci sono le strisce vanno un po' in bamba. Il sensore non vede nulla. Certo, però anche queste sono particolarmente utili perché in un caso in cui tu ti distrai, allora, ci sono alcuni sistemi che ti avvisano solo, altri che proprio intervengono e tengono l'automobile ferma lì nella corsia. Quindi siamo molto vicini alla guida automatica, no? Enrico, abbiamo un altro capitolo da aprire nel nostro sabato del villaggio, però vorrei che tu rimanessi con noi, visto che ti abbiamo qui in studio, perché lo stanno aspettando gli ascoltatori più affezionati, perché di solito ci colleghiamo con lui un attimo prima, ma adesso finalmente possiamo parlare con tutta calma con il nostro gastronauta. Buongiorno Davide Paolini. Buongiorno a tutti. Allora Davide, abbiamo anche Enrico con noi, perché siccome so che ci darai anche qualche elemento che sconfina un po' nella tecnologia, io lo tengo qua accanto a me. Allora, mangiare in viaggio, noi siamo qui al Salone dell'Auto di Torino, quindi vediamo un sacco di auto, un sacco di appassionati di auto, ovviamente un sacco di appassionati di viaggi, non è sempre facilissimo mangiare bene, non tanto quando si arriva a destinazione, ma quando si viaggia. Ma guarda, bisogna secondo me distinguere, innanzitutto quando si viaggia da soli, se si viaggia in coppia, se si viaggia in gruppo o se si viaggia formato famiglia, perché sono quattro opzioni per trovare poi dove mangiare completamente diverse l'una dall'altra. Certo. E quindi bisogna così avere una serie di avvertenze. Io devo dire che non faccio testo, nel senso che per me è un piacere uscire dall'autostrada oppure dove sto andando e andare a caso per vedere di scoprire qualcosa. E proprio l'altro giovedì, quando c'erano delle file terrificanti a uscire da Milano, a un certo punto sono uscito sulla via Emilia perché non sopporto molto le code e quindi vado a caso, però devo dire che sono spesso stato fortunato di aver fatto delle scoperte. E quindi sono uscito così casualmente. A un certo punto mi sono trovato alla periferia di Fidenza con una serie di sensi unici, di deviazioni, e sono capitato vicino, probabilmente era il Duomo di Vicenza e di Fidenza. Ho mollato la macchina, ho cominciato a gironzolare, erano le due, per vedere se trovavo ancora un posto dove andare a mangiare. Appena a un certo punto ho visto due o tre trattorie, e ho detto mi ispira questa, si chiamava Trattoria il Duomo. Ebbene, sono entrato, ho visto tutta una serie di scritte strane sui tavoli, sulle pareti, ma intelligenti, direi quasi poetiche. Ebbene, sono capitato nella trattoria del fratello di Gene Gnocchi e devo dire si chiama il Duomo, e devo dire che ho mangiato pochi piatti, ma un piatto di tortelli infatti locali, diciamo all'emiliana, con dentro ricotta e erbette, però ho mangiato lo gnocco fritto veramente straordinario. Io ho detto che cantava da quanto era leggero. C'è Enrico Pagliarini che è così, ha l'aria sognante, sai che anche dalle sue parti si fa. Guarda Davide, ti chiedo solo un attimo di pazienza perché sono le 15.45, diamo un attimo di traffico e poi ci ritroviamo, perché voglio sapere un po' di consigli, soprattutto voglio sapere di chi ci si deve fidare. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E il tempo stringe qui al sabato del villaggio, perché poi dobbiamo parlare anche di cinema. Il nostro gastronauta Davide Paolini, ti faccio una domanda secca. Ci si deve fidare, non so, del portiere d'albergo quando si va in giro, si chiede di solito, o tu di chi ti fidi, diciamo così? No, io non mi fido né dei casellanti sulle autostrade né dei portieri d'albergo. Di chi perché ti di fidi solito tu? ti mandano sempre dagli amici, dagli amici degli amici. Io sì? Di solito quando vado in giro in posti sconosciuti vado al mercato e comincio a parlare con fruttivendoli, pescherie, pescatori o venditori di carne e gli faccio questa domanda. E di solito, siccome loro sanno benissimo chi va a finire la materia prima migliore, e ti diranno sicuramente delle indicazioni molto migliori di tutti gli altri. Io non dico che mi sembra un'ottima dritta questa. Sì. No, certo, non che non lo sappiano, però non che no, i casellanti molte volte sono gente che sono lì da una settimana, due settimane, magari vivono altrove. I portieri d'albergo hanno dei legami, ma è evidente questo, ma non è che lo metto in discussione, è così e quindi Sì, sicuramente hanno un elenco di ristoratori che sono legati a quell'albergo, ma questo non certo mi scandalizza. E quindi io abbiamo cosa solo faccio? Un minuto, avrei voluto fare un discorso su TripAdvisor, però magari lo rimandiamo alla prossima volta, Enrico. Facciamo un discorso una volta su TripAdvisor. Cioè, anche con... su Yelp. E su Yelp. Allora no, chiediamo, mi stavi dicendo, Davide, per concludere, come ti comporti tu? Ma stavo dicendo che mi faccio dare l'elenco dei ristoranti che vengono consigliati dai portieri dell'albergo dei casellanti, li escludo tutti e poi vado per esclusione. Grandissimo. Però mi piacerebbe sapere dove trova i casellanti Davide Paolini. Vabbè, ma perché tu usi il telepass? No, io non c'ho più il telepass perché no. No, basta, non mi va bene che mi facciano pagare. Qualche volta nei caselli più sperduti qualche volta si trovano. E un tempo erano diciamo il riferimento anche per chiedere le strade. Ora negli ultimi anni è un po' cambiato con tutte le applicazioni di cui parli sicuramente. Esatto. Non mi pare parlare molto di TripAdvisor perché già io una volta diciamo mi sono scontrato piuttosto duramente, ma sono sempre ne riparliamo. Allora io vi propongo per la prossima puntata una sfida, se ci state. La facciamo? Sì, sì. La facciamo, Davide? Facciamo una sfida tra consigli umani e consigli mediati dalla tecnologia? Poi non vincerà nessuno però, non vincerà, ma vabbè. Allora io vi propongo una sfida per il prossimo sabato. Adesso dobbiamo informarci su quello che sta succedendo e che ci sarà questo fine settimana al cinema, quindi io ringrazio il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide, il prossimo ciao sabato allora sfida con Enrico Pagliarini. Va bene, ciao, ciao Davide, ciao Enrico. Allora il prossimo sabato noi parliamo di cinema. Ci sono schemi in ogni cosa, integrali, serie infinite. Non ho mai visto niente di simile. Da un ragazzetto indiano semi-analfabeta di Madras. Vuoi invitarlo qui? Una lettera per te. Viene dall'Inghilterra. Non dimenticarmi. Non potrei mai. Lei era Manujan, immagino. Oh, scusi. Non si faccia intimidire. La conoscenza più elevata scaturisce dalle più umili origini. La lettera conteneva solo un piccolo esempio delle mie scoperte. Ci vorrà una vita. Forse due. E questo è un estratto da uno dei film in uscita questo fine settimana. L'estate è alle porte, ma la voglia di cinema c'è, come sempre. Allora, per capire se vale la pena andare a vedere questo L'uomo che vide l'infinito, ci rivolgiamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. L'uomo che vide l'infinito, una delle proposte, una decina di proposte nuove al cinema in questo secondo fine settimana di giugno, segno che la stagione è ancora abbastanza florida, ma sì, un film direi da vedere, un film classico nella sua stesura, nella sua esposizione, un film senza grandi scossoni di regia, questo diretto da Matt Brown, che annovera nel cast Dev Patel, che è il ragazzino di The Millionaire, diventato poi un ragazzone un po' più grande nella B-saga di The Marigold Hotel, e che adesso arriva in questo film che ancora una volta è un film sul matematico, che sta diventando un vero e proprio genere, il film sul matematico, anzi su due matematici. D'altra parte c'è il professore Jeremy Irons, e i due come dire, rappresentano il vecchio e il nuovo di questa scienza. È una storia vera, tra l'altro, questa di questo genio della matematica indiano, Srinivasa Ramanujan, spero di averlo pronunciato bene, che totalmente autodidatta scoprì delle cose che noi umani non eravamo in grado di scoprire. Con l'ausilio, con l'apporto, col supporto di questo professore inglese, quando ancora l'India era una colonia inglese, e quindi anche due mondi che si confrontano e si scontrano, un mondo che sembra quasi avere un senso di superiorità rispetto all'altro, quindi quasi non dargli il credito che merita. Sono tutti temi che sono dentro questo film, basato su un libro omonimo che, come dicevo, non ha scosso nei particolari di regia, ma è una di quelle belle storie che conciliano con il cinema e che quindi merita di essere vista. Hanno accompagnato l'uscita di questo film tante polemiche, The Neon Demon. Voglio sapere se è un film da vedere. Franco, cosa ne dici? Guarda, secondo me The Neon Demon è un film da andare assolutamente a vedere per chi ama il cinema, perché è un film che mette tanta carne al fuoco nella grammatica cinematografica. Nicholas Winding Refn è un regista che mi piace molto perché ha cominciato, pensate a un film come Bronson per esempio, poi dopo è sfociato in Drive se vogliamo, ma è cominciato come un cineasta indipendente, è arrivato al grandissimo successo con i grandi attori, Ryan Gosling eccetera. A quel punto chiunque, magari non chiunque, ma molti si sarebbero normalizzati a livello di regia. Lui invece sta tornando a quella sua indipendenza che ne aveva fatto un enfant prodige del cinema danese prima e poi internazionale. E in questo The Neon Demon è quasi un omaggio a un genere, l'horror. Non a caso, quando l'ho intervistato poco prima stava mangiando qualcosa con Dario Argento, insomma, che ha proprio espressamente definito un suo padrino a livello visivo. Quindi horror senza troppo sangue, almeno all'inizio, e soprattutto un film che però sa usare il genere per riflettere su un'ossessione forte che nel nostro tempo, che è quella della bellezza, che è quella dell'estetica. Quanto vale, quanto conta, può essere solo naturale, può essere costruita, a cosa si è disposti pur di averla. E quindi tutto un ragionamento su bellezza interiore e bellezza esteriore, che poi appunto sentirete durante La Rosa Purpura alle 18 con l'intervista con Nicolas. Ma sebbene il film abbia qualche momento nel quale magari si fatica un po' anche a stargli dietro, rimane visivamente un'opera di grande potenza. Alcune scene ce le ricorderemo secondo me anche a lungo, e di questi tempi con il cinema non è detto che vada sempre così. Un'ottima notizia invece per noi appassionati della grande Hollywood, quella di un tempo: c'è un grande ritorno al cinema. Sì, c'è il ritorno al cinema di Un americano a Parigi, che è insomma uno dei padri del musical di tutti i tempi, Vincent Minnelli alla regia, Gene Kelly, Leslie Caron, i due attori protagonisti, George Gershwin alle musiche, e dici niente. È un film del 51 che però ha segnato in maniera totale la storia del cinema e del musical, e che ritorna in una versione straordinaria, restaurata in digitale, quindi con la bellezza non solo di vederlo sul grande schermo, finalmente di rivederlo, soprattutto per i più giovani, e poi anche quello di vederlo con questi colori pastello che sembrano veramente una tavolozza, la storia di questo pittore americano che rimane a Parigi dopo la guerra, che tenta di sbarcare il lunario dipingendo ma nessuno compra i suoi quadri, e che quando sembra aver trovato una madrina che forse ha anche qualche intenzione in più su di lui, si innamora di una commessa, e quindi c'è anche la storia delle due classi sociali che si devono scontrare. È veramente un film straordinario nella sua semplicità, nella sua linearità, ma anche nella capacità a un certo punto di buttarci dentro per esempio un balletto di 18 minuti interamente fatto sulle tavolozze dei grandi quadri della pittura francese, che si animano, diventano dei tableau vivant sui quali Gene Kelly e Leslie Caron ballano. Davvero indimenticabile come esperienza. Io dico, visto che è uscito e rimane in sala proprio con una tenitura, non lasciatevelo scappare. Grazie Franco, appuntamento con te con La Rosa Purpurea dopo il GR delle 18 e con noi la prossima settimana, ovviamente da Milano, nel Sabato del Villaggio. Ciao Franco. Ci sentiamo sabato prossimo, fra poco La Rosa Purpurea. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Il sabato del villaggio. E rieccoci con la seconda ora del sabato del villaggio, sempre in diretta dal Salone dell'Auto di Torino. Siamo al Parco Valentino, non vi dico dove siamo di preciso perché tanto ci trovate, abbiamo un track grande grande, tutto verde, color verde Radio 24, quindi non potete non trovarci. Abbiamo degli ospiti favolosi che sono già accanto a me, non vi dico ancora chi sono perché vorrei dirvi quali sono. Intanto i numeri per contattarci: 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, il mio account di Twitter chiocciola Marta Cagnola, l'hashtag cancelletto SDV. Staremo insieme per quest'ora e anche la prossima, perché sta arrivando a Torino, spero, Daniele Bellasio, che secondo me sta guidando e sta ascoltando il Sabato del Villaggio e starà parlando con la radio e starà dicendo: certo che sto arrivando. Allora, sta arrivando a Torino anche Daniele Bellasio per la terza ora con RadioTube, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Il tema di questo Sabato del Villaggio, è un po' normale, siamo al Salone dell'Auto, stiamo parlando di auto. Abbiamo parlato di tecnologia e auto con Enrico Pagliarini, Andrea Ferro, che è il nostro conduttore di hashtag Autotrasporti, ci ha raccontato un po' quello che ha visto in questi giorni. Abbiamo parlato di dove mangiare e di chi fidarsi, dei consigli di chi fidarsi quando si vuole mangiare in viaggio col nostro gastronauta Davide Paolini. Adesso, nella seconda ora del Sabato del Villaggio, parleremo di libri e di libri legati all'auto, lo faremo come sempre con la nostra Alessandra Tedesco. Poi parleremo un po' di attualità legata alla musica, perché si è parlato tanto in questi giorni del fatto che tornerà X Factor con dei nuovi giudici, uno di questi giudici sarà Manuela Agnelli, ma gli After Hours sono usciti con un nuovo disco e noi li abbiamo incontrati per parlare soprattutto del nuovo disco, ma anche di questa avventura prossima di X Factor di Manuela Agnelli. Ma partiamo con degli amici, io sono molto contenta di averli già qua in studio, quindi continuiamo, già ve lo dico, a parlare di musica e io li voglio introdurre così. La prossima estate, che cosa sognate? Un viaggio ai tropici? Liste di buoni propositi, la prossima estate, che cosa portate? La borsa piena di temporali, il cruciverba batte Murakami, telefonate illimitate, lunghi silenzi quando chiami, la prossima estate. Ma cosa sognano per la prossima estate i Perturbazione? Ma glielo chiediamo direttamente, ce l'abbiamo qua, abbiamo qua Tommaso, abbiamo qua Rossano. Buongiorno i Perturbazione. Buon pomeriggio, buongiorno. I Perturba, buongiorno. Ho detto no, Perturba buongiorno. Perché sono due, quindi due, solo due Perturba, quarti. Due quarti, metà dei Perturbazione. Io quando mi hanno detto devi andare a Torino, e subito ho detto allora chiami Perturbazione. Sì, noi siamo come Gianduia, no? Mamma mia, una delle specialità locali. Allora, la prossima estate è il singolo, ma la prossima estate è intesa come quella del 2016? La prossima estate è il luogo delle eterne speranze, è il Sabato del Villaggio, ma in chiave di stagione, ecco. Sì. Perché questo è il luogo dove dici, poi è un po' come il primo dell'anno dove fai la lista delle cose che ti riprometti. Ecco, un po'... Arriva l'estate, devo mettermi a dieta. E per noi la prossima estate è il tour, soprattutto, perché abbiamo un disco che è uscito a gennaio, le storie che ci raccontiamo. Le storie che ci raccontiamo, che è pieno di storie bellissime. Vi avevo già ospitato negli studi di Milano che e bella, avevo già parlato. Che sì, è stata bella. Ci siamo divertiti un sacchissimo. Ci siamo divertiti, perché poi il disco è proprio bello. Ma adesso poi riparliamo anche del disco, perché poi sembra sempre che dobbiamo consumare i dischi e buttarli via. Ma quando mai si fa così fatica a farli che bisogna parlarne per un po', ragazzi? Corretto. Però visto che hai detto tour, sabato 18 giugno a Vicenza. Festa Ambiente di Vicenza, la festa di Legambiente di Vicenza, e da lì parte il tour. Le date le stiamo proprio pubblicando a giorni, all'inizio della settimana, perturbazione.com. i nostri social compariranno la lista delle prime date, insomma, chiuse. Quindi com'è un live di Perturbazione? Prima, dopo, durante. Dai, tutte e tre racconta. È molto molto tranquillo negli ultimi mesi, devo dire, molto molto molto tranquillo. Ci divertiamo molto mentre suoniamo, siamo anche molto sicuri perché abbiamo imparato a gestire la tecnologia nella maniera giusta, cioè non troppo e non assente, e in generale ce la viviamo molto bene. Se posso... Bisogna anche dire che questo è anche determinato dal fatto che le persone, bontà loro, che vengono a vederci sono molto molto affettuose, ci vogliono molto bene, quindi l'esperienza alla fine è sempre in saldo positivo. I fan dei Perturbazione sono super carini, sì. I fan dei Perturbazione sono... Cioè, cerchiamo questo atteggiamento un po', per citare un film bello che ho visto due sere fa su LCD Sound System, che sono un gran gruppo di New York che si è disciolto con quest'ultimo concerto descritto in questo bellissimo documentario che hanno fatto, che si chiama Shut Up and Play the Hits, cioè stai zitto e suona le tue hit, fondamentalmente. Questo è un po' l'atteggiamento dei nostri concerti, nel senso di siamo anche legati a una certa dose di malinconia e di nostalgia, se vuoi, nelle nostre canzoni, però cerchiamo di portare una parte di riflessione, di canzoni che puoi, se vuoi, spelare, no? E trovare nuovi strati, nuove letture, nuove profondità, attraverso un atteggiamento invece assolutamente leggero, perché le persone poi vogliono uscire, stare anche bene insieme e vivere un evento anche catartico, se vuoi. Tra l'altro vi ho pensato questa settimana, al di là del fatto che ci saremmo visti qui a Torino, perché l'altra volta avevamo parlato di quelli che guardano i concerti attraverso lo schermo del cellulare, sì, che filmano, sì, sì, tutto, sì, e sì. Adele ha cazziato il pubblico e ha detto guardatevi il concerto, così. Giusto, era proprio giusto. Di quello di cui abbiamo parlato l'altra volta. Allora, 16-14 minuti, siccome ci sono un sacco di persone che sono in auto in questo momento, stanno guidando, vogliono sapere dove c'è traffico, se c'è traffico, magari anche Bellasio che sta arrivando, speriamo, a Torino in auto per la terza ora del Sabato del Villaggio, facciamo una brevissima pausa e poi voglio sapere un sacco di cose ancora dai Perturbazione, che sono qui con noi nello stand di Radio 24 al Salone dell'Auto di Torino. Il Sabato del Villaggio. Salire o scendere, donare o prendere, dipende tutto da te, dipende tutto da fermarsi o correre, fuggire o fingere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Non ci puoi credere, 7 miliardi a che, bisogno c'era di te, bisogno c'era di guadagnarsi il pane, ma avere sempre fame, di accontentarsi ma non smettere di desiderare, dipende da te. Dipende da te, non cedere alle critiche ma impara a cambiare. Dipende da te, dipende da te, se servi o sei servito, se sorridere. Ascolterei tutta, però voglio anche parlare con i Perturbazione, ce li abbiamo sempre qua con noi allo stand di Radio 24 al Salone dell'Auto di Torino. Tommaso, Rossano, Tommaso, metà dei Perturbazione, ma ce li abbiamo. Dipende da te era l'altro singolo, e quindi quello nuovo è la prossima estate, l'abbiamo sentito prima. Le storie che ci raccontiamo è stato un album bello e che... Con un sacco di pezzi belli che secondo me vi accompagneranno per un po'. Ma sì, diciamo che chi ha letto in profondità, si è gustato in profondità il disco, ha detto questo, e quindi ovviamente fa molto piacere. Bisogna anche considerare che c'è tutta invece una parte di distrazione che governa le nostre vite, quindi non sempre si ha il tempo, i modi necessari per leggere bene e gustarsi le cose. Vabbè, però voi avete comunque questo giusto equilibrio tra il testo, appunto, lo diceva prima Tommaso, un po' di malinconia diffusa, perché c'è un bel po' di malinconia. Beh, sì, le canzoni sono... Secondo me sono belle perché già quelle belle adesso noi non sempre adesso, con un po' di modestia, ogni tanto ti viene bene la maionese, ogni tanto impazzisce, ci provi, ti cuci un po' le storie addosso, e devono essere storie che possono essere lette a tanti livelli, cioè la musica pop è bella perché deve avere ovviamente un'atmosfera e un qualcosa di pancia che ti arriva immediatamente, e dopodiché se hai voglia di approfondire allora puoi andare a scavare nei vari livelli di lettura, ecco, questo un po'. Però è bella questa cosa che dicevi, e che in qualche modo si collega anche a una cosa che hai detto all'inizio dell'incontro, ossia cioè molto spesso si parla dei dischi come di prodotti culturali, e da una parte è vero, però è vero che dargli quella dimensione lì e poi lo fai assomigliare un po' troppo alla marmellata. La marmellata quando finisce il vasetto è finita, le canzoni invece se sono belle durano, e quindi speriamo che ce ne siano un po' che durano in questo album. Beh, ci sono un sacco di storie appunto da cui il titolo in questo album. Avete parlato di trentenni e so che poi ci saranno delle novità che non posso svelare, che io ho saputo così, le ho sapute ma non posso raccontarle. Avete cercato di guardare una generazione poco lontana da noi, pochissimo, un paio d'anni meno di noi, quella dei trentenni. Avete guardato ai rapporti sociali e sentimentali in maniera abbastanza così disincantata e curiosa, e poi appunto questa prossima estate i desideri, i sogni. Come sono nate, voglio tornare su questo disco, come sono nate queste storie? Beh, con Rossano io e lui ci occupiamo proprio della parte dei testi, unendo tutta la parte musicale che arriva da Alex e Cristiano, e poi cercando di appunto cucinare questa pietanza. Lavoriamo tantissimo usando tantissimi input che sono dagli alti ai bassi, dal piccolo al grande. Mi spiego meglio: può essere il grande romanzo a ispirarti, un ottimo film, così come della pessima televisione o una conversazione presa sul tram mentre stai andando in un luogo. Cioè devi veramente essere una spugna e nutrirti di tantissime fonti, che possono essere il rotocalco femminile e quella rubrica del cuore, che diventa in questo caso la canzone Cara rubrica del cuore, che è poi una storia di grande fragilità, di solitudini in qualche modo che non riescono a incontrarsi attraverso il web. Il web è un altro di quei posti dove vai veramente a cercare di trasformare tutto quel catalogo di informazioni continue, molto private, bulimiche in qualche modo, perché è una cosa che è a flusso continuo, e fare quello che è il montaggio cinematografico. Scegli poche inquadrature e cerchi di restituire però la personalità di qualcuno che ha dei tratti molto intimi, molto personali, ma che in qualche modo poi quella storia va anche a rappresentare poi un modo che abbiamo tutti quanti di fare delle cose molto simili: andare negli stessi grandi centri commerciali, fare le stesse strade, ritrovarci al suono dell'auto, ognuno con la propria voglia di essere un'intimità, una persona, e allo stesso tempo ognuno con la sua modo di essere omologati. Ecco, l'interrogativo credo principale dei perturbazioni negli ultimi dischi in questi anni è chi l'ha detto che a fare delle cose che sono in qualche modo omologate e omologanti ciascuno di noi invece non possa determinare una propria identità. Ecco, addirittura fatto Sanremo, che voglio dire è il massimo del mainstream, detto con tutto l'amore che io provo per quella manifestazione, vi siete cimentati anche proprio nel palcoscenico più mainstream che esista, portando il vostro e peraltro spaccando, portando esattamente il vostro. Sì, abbiamo cercato è la canzone poi alla fine che fa la differenza, non è tanto. Credo sia alla fine una delle canzoni che sono rimaste di quell'edizione. Lo dico io, non lo potete dire, ve lo dico io. Una delle canzoni che sono rimaste. L'hai detto tu, quindi. L'ho detto io. Sarò didascalico per gli ascoltatori. Stiamo parlando di quella che inizia dicendo Erika, tu eri l'unica, eccetera. Che perché si chiama proprio l'unica. Esatto, perché secondo me. Me la canti Erika? Esatto. Sì, per molti è rimasta Erika. Io mi aspettavo, ve l'ho detto anche già l'altra volta, mi aspettavo anche Sanremo a perturbazione 2016, ma cioè in perturbazione saremo 2016, 2017 ci provate? Beh, se c'è la canzone giusta, noi speriamo di averla, perché siamo a ciclo continuo di produzione, quindi in realtà in questi mesi... voi non avete fasi creative, fasi da comunque scrivere? Cerchiamo sempre. Un po', alla fine è uscito questo film non bellissimo, ma abbastanza interessante, sulla vita di Nick Cave, che si chiama 20.000 giorni sulla Terra, 20.000 days on Earth, dove fra le molte cose si parla anche della sua quotidianità. C'è questa cosa molto buffa di lui che è da Brighton, dove abita mi sembra, sì, Brighton, va quotidianamente a lavorare in questo suo ufficio a Londra. Una volta eravamo più diciamo separati nel periodo ora si suona dal vivo, ora si scrive, ora stiamo cominciando a capire che invece è una maggiore continuità di lavoro alla fine da incastrare il resto è utile. Quindi in questi mesi qua, tra i vari concerti, le pause, speriamo, dobbiamo e vogliamo rimetterci sotto a scrivere, perché sennò poi quando devi ripartire da zero è sempre un casino. All'inizio dici: ma com'è questo verso? Perché è così brutto? E contemporaneamente ci piace fare tantissimo la ricerca di altri mondi della comunicazione, dell'espressione artistica, andare a corteggiare noi il mondo del teatro, del cinema, riprendere Buster Keaton. Abbiamo sonorizzato 2 anni fa The General, certo, il suo capolavoro del 1926, riuscire magari a portarlo un po' nei festival cinematografici. Questa commistione di musica e altri linguaggi è una cosa che ci è sempre interessata. Abbiamo già prodotto tante cose in passato e stiamo seminando tanto da questo io punto col di cinema vista. Vi vedo benissimo, vi vedo proprio perfetti. Aspettiamo soltanto la telefonata, ma abbiamo imparato che è meglio le telefonate farle. Guarda, mi piace tantissimo il tuo modo di lavorare, Paolo Virzì, non so, chiamami per ecco, il prossimo così, film. Anche a me mi sembra un Virzì, mi sembra sì, che mi si possa intonare bene. Ma mette solo canzoni anni 60. Adesso lo convinciamo. Proviamoci. Ragazzi, com'è Torino? Perché io l'ho conosciuta tanti anni fa, perché ci ho lavorato tanti anni fa, mi sembra cambiata moltissimo. Com'è vivere e far musica a Torino? Allora, una città in cui quando siamo cresciuti noi era tutta molto cromaticamente, non metaforicamente, grigia e marrone. Ora è cambiata completamente. Diciamo che un po' la roba che ci si racconta, questa cosa che da orario dell'aperitivo, della conversione post-industriale, cioè, siamo un po' schematici onestamente, però in realtà, dovendo dire, è una città dove si vive molto bene, dove capitano un sacco di cose e che negli ultimi anni in effetti è riuscita un po' alla volta a cambiare pelle. Basti vedere, insomma, andando in giro per il centro, per chi come noi la bazzica o ci abita, sentire una cosa molto semplice, tante lingue diverse. Una volta non era così, ora senti con molta facilità, andando nei locali, nel centro, nei musei, tante persone parlare inglese, francese, tedesco. È quasi sorprendente per noi, insomma. E ha l'effetto sorpresa. Poi la cosa bella è che tanti ti dicono: sono andato a Torino, non mi aspettavo assolutamente una città Torino meravigliosa. È bellissima perché siccome la Leghi, appunto, siamo al sole dell'auto, la Fiat qui è stata effettivamente quando quella unione tra città e grande industria è andata in cortocircuito, appunto, inventarsi di nuovo la città è stata la scommessa. È molto simile a Detroit, che aveva 2 milioni di abitanti, qui c'era 1 milione, ma la scommessa culturale è stata centrale. Le Olimpiadi del 2006 sono state forse la boa veramente attorno a cui hai visto la città svoltare. Un turista non era immaginabile qui, certo, veramente 20 anni fa, bella, e adesso bella. È una città Torino completamente trasformata. Sì, poi ovviamente non vogliamo essere degli sciocchi entusiasti, ovviamente ci sono le criticità, sì, in questa certo, città, certo, come in ogni però grande vale città. La pena visitarla, perché io appunto ogni volta che vengo sono poi qui siamo vicini al fiume, quindi ma infatti dire. Abbiamo il fiume, il laghetto dietro con le anatrine, è bellissimo. Ragazzi, quali sono i desideri dei Perturbazione adesso? Desideri di Perturbazione adesso sono rimanere un gruppo, cioè noi che siamo non è poco, no, non lo è nel 2016, cioè pensa all'Italia, un paese di interpreti, spesso di solisti, basta pensare alla Nazionale Cantanti, che ho un'esperienza con la fortuna di fare in questi un anni. Atleta, cioè, Tommaso. Atleta è una parola grossa, va bene, dai. Uno scarpinaro che sta lì in zona stopper, però. Anche perché Marta, devo confessarti, questo un po' diciamo fra me e te, insomma, sì, siamo al sole dell'auto, ma forse una delle più grandi passioni di Tommaso è la bicicletta. No, sì, va bene. Parcheggiata qua dietro al sì, no, va bene, ma si può, noi tendiamo a non vedere le cose in modo giudicante, sai, e così cerchiamo di fare con l'auto, con la bicicletta, cioè gli schemi e l'idea dell'ideologia auto contro bicicletta meno, ai Perturbazioni un po' che si muovono, un po' sì, tanto anche in furgone, cioè il mondo è un mondo complesso, e quindi non cercare di stare nelle zone dei grigi e capire come funziona veramente la complessità del mondo è secondo me il lavoro di ciascun essere umano, ecco. E in questo senso riuscire a rimanere non degli individui, ma un'unione di individui che cerca di fare una cosa insieme e mette anche insieme le competenze di ciascuno, è veramente il nostro sogno, perché ci completiamo e riuscire a fare questa cosa attraverso le complicate storie, i complicati pretesti del come, per citare una nostra canzone, le famiglie, la vita, i tornanti, eccetera, penso che sia il nostro sogno e desiderio principale. È un grande privilegio. privilegio poter fare questo mestiere, se si riesce a fare tutto quello che si dice, che diceva Tommaso, e alla fine sviluppare anche una, un'identità, un proprio marchio, una propria riconoscibilità, una propria unicità, boh, è la cosa più bella e più forte di tutti, ed è poi un po' lo stesso sogno che continuiamo, diciamo, magari provando a mischiare linguaggi diversi a perseguire, che intendiamo, insomma, continuare a perseguire. Io voglio ricordare sabato 18 giugno Vicenza, la prima data, e poi vabbè perturbazione.com, così vediamo tutti, esatto, tutte le date, nord, di questi... centro, sud, sì, incontriamoci quest'estate. Gli, esatto, gli altri vanno in vacanza, ma chi suona l'estate deve lavorare. No, infatti l'altro giorno ho detto a Tommaso, guarda che Ferragosto scordatelo, perché lì attorno è tutto bloccato, si sta in giro, quindi... niente, portati la bicicletta, però tocca fare un live per tutta l'estate. Sono molto contenta di aver avuto i Perturbazione, grazie Tommaso, grazie Rossano, sono veramente contenta di avervi qui a Torino. Noi ci ritroviamo tra poco, però parleremo di libri, parleremo ancora di musica, avremo ancora un sacco di tempo, insomma, fino alle 18 questa volta del villaggio. Grazie ancora ai Perturbazione. Grazie a te Marta, grazie a Radio 24 e agli ascoltatori. Ciao. A tra... Il sabato del villaggio. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Allora, io non so perché Suzanne Vega, non so perché Luca, secondo me c'è lo zampino della persona con cui ci stiamo per collegare, perché qui al Sabato del Villaggio questo pomeriggio in diretta dal Salone dell'Auto di Torino, una bellissima impostazione, tra l'altro nel Parco Valentino, che è favoloso, che è proprio un luogo bellissimo nel centro di Torino, lo abbiamo sentito anche dai nostri ospiti nella prima ora, c'è tanta gente e ce ne sarà anche questa sera, perché ieri sera fino a l'una era pieno, e questa sera probabilmente anche di più, e anche domani ancora al Salone dell'Auto di Torino. Abbiamo tenuto l'auto come filo conduttore di questo sabato pomeriggio insieme in diretta su Radio 24. Adesso dobbiamo parlare di auto nei libri, e quindi ci colleghiamo con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, direttamente collegata dal divano di casa mia, posso dirlo? Così si fa, così si fa il sabato pomeriggio. Dalla libreria di casa mia, ce l'ho di fronte, la guardo, però oggettivamente sono sul divano. Inviata dalla libreria dal divano. Beh, perfetto, mi sembra un ottimo modo per passare il sabato pomeriggio, e soprattutto mi sembra ottimo il sabato pomeriggio ti debba chiamare, disturbare per venire in diretta al Sabato del Villaggio. Come tutti i sabati. Alessandra, libri e auto, che cosa ti è venuto in mente quando così abbiamo deciso? Posso dire che mi hai dato un compito difficile, Marta? Anche perché ho pensato ce ne saranno tantissimi, però insomma poi scegliere non è facile. Allora, che cosa ci puoi consigliare? Allora, io ti dico che i primi libri che mi sono venuti in mente, i primi romanzi naturalmente che abbiano un'auto un po' come protagonista, in realtà erano tutti libri, romanzi spesso americani, che avevano per protagonista un pulmino, un minivan, un camper, insomma non riuscivo a trovare veramente l'auto. Ah, tu volevi proprio auto? Esattamente, auto. Poi mi sono fatta consigliare un po' dagli amici, un po' appunto mi sono messa a guardare nella mia libreria e ho pescato un po' di cose dal passato e dal presente, mettiamola così. Allora, auto come luogo di meditazione, che cosa ti fa pensare? Beh, a me ha fatto subito pensare al romanzo Caos Calmo di Sandro Veronesi. Certo, è un romanzo insomma di alcuni anni fa. Aveva vinto infatti il premio Strega nel 2006. Perché? Perché se avete visto il film, vedete che il protagonista Pietro Paladini, che perde la moglie, va fuori dalla scuola della figlia per aspettare la figlia, eccetera, medita su una panchina. Ma nel libro, in realtà, lui si infila in una macchina che è più o meno abbandonata da quelle parti e riflette sulla sua vita, racconta la sua storia in macchina. Quindi nel libro c'è la macchina, ma non la panchina. Ah, allora era diverso, vedi? Cara mia, vedi, i libri e il film non coincidono. Ma pensa, vedi un po', ecco, quindi la macchina poi c'era. Guarda, la macchina assolutamente protagonista. Poi ho preso qui proprio dalla mia libreria un libro che è del 1999, penso un po', un libro bellissimo che aveva vinto il Pulitzer nel 2000, della scrittrice indiana americana, ma poi ha vissuto anche in Italia per 4-5 anni. Lei si chiama Jhumpa Lahiri. La raccolta di racconti con la quale vinse il Pulitzer è L'interprete dei malanni, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. All'epoca lo pagai 24.000 lire, ti dico anche il prezzo. Anche a me piace vedere che c'erano ancora i prezzi in lira. Ogni tanto tiro fuori un vecchio libro, guardo sulla copertina e c'era il prezzo in lira. Anche a me piace rivederla, sì. Esattamente, quindi ti posso assicurare che ce l'ho qui in mano, copertina arancione, e adesso naturalmente è in edizione economica. Sulla copertina c'è una bella auto, perché? Perché fra i vari racconti che un po' si collegano di questo libro c'è un racconto nel quale un'auto ha una parte fondamentale, perché c'è un signore, un autista che guida un'auto per turisti, e anche qui ci sono delle varie meditazioni che avvengono all'interno di quest'auto. Anche se non vi piacciono i racconti, fatelo per me, leggete di Jhumpa Lahiri L'interprete dei malanni e sono sicura che cambierete opinione. Allora, Alessandra lo dice perché sa che io sono non è che non mi piacciono i racconti, è che se un racconto mi piace poi ci rimango male, che finisce, vorrei che fosse un libro intero. Però allora non solo non lo consigli solo agli appassionati di racconti, ma anche no. Io sì. lo consiglio veramente a tutti. Guarda, ti leggo l'incipit, perché l'incipit è del primo romanzo, mi folgorò quando lo lessi. L'avviso precisava che si sarebbe trattato di un disagio temporaneo. Nei giorni successivi avrebbero sospeso la corrente per un'ora a partire dalle 8 di sera. E qui iniziano una serie di racconti a partire da questo incipit. Dite se non questo incipit non è bello. No, no, bello, bellissimo, sono d'accordo. Andiamo avanti con i consigli, libri e auto insieme. Allora, passiamo, visto che vi ho consigliato una roba del 2000, di 16 anni fa, ho un libro invece che è appena uscito in Italia per la HarperCollins, che è iniziata a pubblicare proprio direttamente in Italia, quindi si chiama HarperCollins Italia. Il libro si intitola In viaggio con Albert, storia semiseria di un uomo, una donna e il loro alligatore. Rido perché è un libro abbastanza surreale, scritto da Omer Hickman. È la storia sostanzialmente di una donna che insomma ha un innamoramento, una storia di passione con un uomo, poi lo lascia, si sposa con un altro, vive in una noiosa cittadina mineraria degli Stati Uniti, finché praticamente il marito si stanca di lei e dice basta, devi andare via tu e l'alligatore, perché l'alligatore era stato un, come dire, un regalo di matrimonio che avevano ricevuto. Ma un alligatore vivo? E allora lei si mette in macchina con questo alligatore per tornare a Orlando, dove aveva avuto passione. Un romanzo che è stato definito abbastanza pazzo, surreale, una storia tragicomica. Ma un alligatore vivo, vero? Eh sì, vero, è mica finto. È stato in costruzione l'auto con l'alligatore e col coccodrillo legato. Ma che domande faccio effettivamente. Bello, però scusa. So già che mi piace, perché sai che a me piacciono i libri un po' con un umorismo surreale, così, secondo me questo è il libro per me. Sì, se vi piacciono i libri anche un po' grotteschi, perfetto per me. Dovete essere pronti, insomma, a ridere, sorridere, magari anche qualche lacrimuccia, però è un libro un po' pazzo, ecco, diciamolo così. Alessandra, invece, sempre in questa stagione noi diamo il consiglio per gli appassionati di horror, che d'estate ancora di più popolano le librerie. Allora, posso dire che il binomio si dice sempre donne e motori, no, horror e motori, perché ho scoperto che veramente nella letteratura horror la macchina la fa da padrone. Dico scoperto perché non è una delle mie passioni la letteratura horror. Giusto per citarne alcuni, Stephen King, ben due, anzi ne cito anche tre perché mi è venuto in mente un altro in questo momento. Christine, la macchina infernale, è un romanzo del 1983 da cui fu tratto anche un film, e questa macchina, vabbè, che raccontare la trama è troppo complesso, quindi ve lo dovete leggere se non avete paura, perché è abbastanza inquietante. Allora, per sintetizzare la trama, fa paura. Fa assolutamente paura. Poi c'è un romanzo più recente, sempre di Stephen King, pubblicato in Italia dalla Sterling & Cooper del 2014, Mr. Mercedes, e lo dice il nome stesso, perché c'è praticamente un malato di mente, uno psicopatico alla guida di questa Mercedes. Io, scusate, lo so che siamo al salone dell'auto, ma non capisco niente di macchine. Il modello è SL500, magari sarà anche una macchina figa, si conosce. Con un motore a 12 cilindri. così c'è scritto. Che per te può essere qualsiasi cosa. Esattamente. Ecco. Praticamente questo psicopatico con questa macchina investe intenzionalmente un gruppo di persone. Ma non vi dico che cosa succede dopo. Tra l'altro anche nell'ultima raccolta di racconti di Stephen King, di cui abbiamo parlato nel Sabato del Villaggio, Marta, c'era anche un racconto, se non ricordo male, che parlava di un'auto, un autogrill. Chiunque si avvicinava a quest'auto abbandonata veniva inghiottito e scompariva nel nulla. Quindi insomma, mi pare il minimo da un libro di Stephen King, mi pare il minimo. Alessandra, per concludere con i consigli, a che capitolo vogliamo passare? I ragazzi, non so, dici tu. Guarda, io vorrei concludere con un po' in dolcezza. Oh, sì, dai. Un libro che a me è piaciuto molto, anche questo di qualche anno fa, l'ho trovato nella mia libreria, e dove una macchina, anche stavolta è una Mercedes, scusate, giuro che non l'ho fatto apposta, però è un po' protagonista. Il libro si intitola Zia Mame. Oh, quanto mi è piaciuto, quello mi piace tanto. L'aveva scritto l'americano Patrick Dennis, in realtà è uno pseudonimo, pubblicato da Adelphi, anzi ripubblicato da Adelphi alcuni anni fa, nel 2008-2009. Perché dico ripubblicato? Perché fu pubblicato negli Stati Uniti negli anni 50 e ebbe un grande successo. In Italia, qualche anno dopo, non se lo filò nessuno. L'Adelphi lo tirò fuori e lo ripubblicò con una bella copertina ed è straordinario, fu uno dei casi editoriali dell'estate del 2009. E c'è questa zia Mame, che è una donna assolutamente eccentrica, surreale, una single alla quale viene affidato un nipote che va in giro con questa Mercedes. Quindi la Mercedes di zia Mame, secondo me, è una delle auto della storia della letteratura da ricordare. Sono d'accordo con te, Alessandra. Vuoi darci solo, non so se hai un libro per ragazzi, ce l'hai un libro per ragazzi da consigliarci questa settimana? Con le auto no, stavolta anche senza auto. Difficoltà. Anche senza auto. Senza auto. Allora, vediamo che cosa ti consiglio per ragazzi. Guarda, ho un momento di allora, facciamo una cosa, perché do il traffico, poi torniamo insieme e mi dai un titolo per ragazzi, fantastico, va bene? Facciamo fantastico. Così. Traffico e poi a tra poco con Alessandra Tedesco. Il sabato del villaggio. E torniamo insieme con il Sabato del Villaggio, l'ultimo spicchio del Sabato del Villaggio, perché poi ci sarà ancora un'altra ora di diretta, come sempre, come tutti i sabati sarà l'ora di diretta di RadioTube. Io dicevo, arriverà Daniele Bellasio, è già arrivato, anche con un ospite, quindi siamo salvi, anche RadioTube andrà in onda. Siamo qui al Salone dell'Auto di Torino, Parco Valentino, c'è un sole bellissimo, è tornato il sole bellissimo, l'avevamo detto che le previsioni erano perfette, quindi sono molto contenta. Adesso però abbiamo lasciato in sospeso Alessandra Tedesco, perché l'ho detto, sfila dalla tua libreria un libro per ragazzi, visto che oggi è la nostra corrispondente dal divano di casa sua, e consigliaci un libro per i ragazzi, anche senza auto questa volta è veramente senza auto, perché parla di natura, è un libro per bambini e ragazzi, ma può essere letto anche da adulti, sai, ormai va di moda scrivere favole per bambini e adulti. L'ha scritto lo scrittore fiorentino Marco Vichi, Il coraggio del cinghialino, solo il titolo mi fa una tenerezza infinita, pubblicato da Guanda, e ci sono naturalmente, c'è una morale, ci sono tanti animali, ovviamente non ci sono macchine perché siamo nel bosco. Certo, quindi non... Mi dispiace, no. Ma ho un libro per bambini senza auto. Fa niente, però il libro per bambini lo vogliamo tutte le settimane, perché così convinciamo i genitori ad andare in libreria, o chi deve fare un regalo per un diciamo bimbo che andare a scegliere un libro. I bambini lo possono leggere in auto, ecco, che così li distraiamo, perché sono sempre. Alessandra, grazie per essere stata così collegata con noi dal divano di casa in questo sabato di villaggio, però la prossima volta sabato prossimo ci troviamo ancora negli studi di Milano, dai, ti prometto Milano, che sarò a Milano Marta, la prossima ciao. Settimana. Grazie ad Alessandra Tedesco, apriamo quindi l'ultimo capitolo del sabato del villaggio per questa settimana, prima dell'ora di RadioTube, ed è un capitolo che suona così. Giochi sul web, sai chi ce l'ha regalata, non ti hanno insegnato già da piccino, niente dolci da gente ignota. Un bravo spacciatore aspetterà che tu non possa fare a meno di lui, verrà a riscuotere, tu obbedirai. tanto di loro questa settimana, ma si parlerà ancora di loro e ancora di più nei prossimi mesi. Sono gli After Hours, un gruppo famosissimo, un gruppo che tutti conoscono, che è uscito questa settimana con un disco veramente bello e veramente tosto. Adesso vi spiegherò anche il perché, ma si parlerà tanto di loro nei prossimi mesi perché Manuel Agnelli, fondatore, cantante, frontman, sarà uno dei prossimi giudici del prossimo X Factor. Quindi vedrete che anche chi non conosce, chi non frequenta questo tipo di musica, chi non conosce Manuel Agnelli imparerà a conoscerlo e soprattutto, ve lo anticipo già, ad amarlo, perché lui è veramente una persona molto particolare. Ma intanto diciamo qualcosa di questo nuovo album che è uscito questo fine settimana. Il titolo sembra una filastrocca, Folfirio Folfox. In realtà sono i nomi di due farmaci usati in chemioterapia, ed è un disco che parla di malattia, un disco che parla di un lutto, un disco che è servito soprattutto a Manuel Agnelli, che è il cantante e l'autore dei testi della band, a superare un momento difficile, drammatico della sua vita. Ne abbiamo parlato proprio con Manuel Agnelli e con un altro degli After Hours, che è Rodrigo D'Erasmo. L'unico modo per buttare fuori il dolore e quindi non rimanerne poi schiavo, perché poi il dolore ti ingabbia e non ti fa più vivere, l'unico modo che io conosco, che noi conosciamo, è quello proprio di metterlo in musica, di sublimare proprio con l'effetto catartico che scrivere di certe cose ti può dare. Non è la prima volta che io utilizzo questo stratagemma, l'ho utilizzato per la prima volta per un motivo di questo genere, ma in passato l'ho fatto per altre cose, per la mia indolenza, per il mio malessere in generale, perché mi mollava una fidanzata, eccetera, eccetera, perché ero scontento della vita che stavo vivendo. Insomma, ci sono tante possibilità in realtà all'interno della musica di riuscire a sublimare un discorso. Chiaramente questa volta è stato molto più potente che in passato, perché la botta è stata molto più forte che in passato, e quindi anche proprio la funzione della musica è stata più grande che in passato. Devo dire che mi sento un privilegiato da questo punto di vista. E per voi entrare in questi testi, la decisione di condividere umanamente anche queste storie? Beh, diciamo che ha avuto inizio proprio quando, in principio, mentre finivamo la parte musicale, a metà diciamo del lavoro musicale, Manuel ci ha proposto la possibilità di parlare di questi temi, perché lo sentiva, perché ne sentiva il bisogno, ne aveva desiderio ed era la sua urgenza, e ci ha proposto anche questo titolo, e c'è stata una complicità e una adesione immediata da parte di tutti, un po' perché un po' tutti ci siamo trovati più o meno direttamente coinvolti in situazioni simili e in dolori simili, e un po' perché, come dire, c'era un senso di necessità, appunto, di urgenza, di importanza, e tutto questo, come dire, dava un ruolo e un senso a quello che saremmo andati a fare ancora più grande, e lo stiamo vedendo adesso che quel ruolo, insomma, e mi auguro che sia sempre più così, in realtà c'è, cioè, già sentire le prime persone che ascoltano dei brani, ascoltano il disco, dicono lo sto ascoltando a ripetizione perché mi sta facendo bene, è una cosa fantastica, è la consacrazione di quel ruolo, è uno dei complimenti più belli che ci possano fare, una delle sensazioni più belle che si possono provare dopo essersi un po' egoisticamente, ma in senso positivo, liberati noi, no? Esserci liberati noi di queste tossine, di questi dolori, vedere che possa succedere anche a qualcun altro che ascolta quello che hai creato, è fantastico. Scava sotto i buoni, c'è un cadavere, sotto i cattivi un angelo ucciso da un'idea. Folfirio Folfox è veramente un disco bellissimo, questo disco degli After Hours, però come vi dicevo, di Manuel Agnelli si parlerà ancora di più nei prossimi mesi perché sarà uno dei nuovi giudici di X Factor. Ma Manuel Agnelli sente la responsabilità di portare la sua preparazione musicale, la sua cultura in TV? Glielo abbiamo chiesto. Non sento la responsabilità, sento la voglia di farlo, sento la voglia di portare in giro una visione, di portare in giro un percorso, di portare in giro un'idea. Anche nel piccolo sento questo, non sento una responsabilità vera e propria. Alla fine non deve essere tutto per forza grande e importante, può essere anche piccolo e non determinante, però l'importante è secondo me ancora una volta andare a occupare dei posti che sono liberi per riuscire a portare la propria visione delle cose, portare la cultura fra la gente. È il ruolo degli artisti, è il ruolo dei musicisti, è il ruolo degli intellettuali, è un ruolo che è stato tralasciato in nome di una difesa di una purezza culturale che poi alla fine invece è solo fatta in cattiva fede, perché l'intelligenza che adesso dice di voler difendere la cultura dall'imbarbarimento della gente in realtà vuole avere il controllo della cultura. La cultura va portata fra la gente, la cultura va sporcata, la gente è cultura, la gente deve far parte della cultura, il ruolo dell'intellettuale è quello di sporcarsi le mani, prendersi dei rischi, venire sconfitto, fare delle cose non per forza per vincere, non per forza per ottenere chissà quali risultati, fare delle cose e portare la propria visione delle cose in mezzo alla gente. Però voi lo prenderete in giro, sono sicura? No, ti dico la verità che non lo abbiamo, stranamente non l'abbiamo, no scherzo, non l'abbiamo mai fatto, e anzi c'è stato un supporto immediato da parte di tutta la band, ma proprio alla luce di come abbiamo visto, convinto, no, di questa scelta. Manuel è stato già contattato un anno fa, in realtà, Manuel, e un anno di riflessione, e quest'anno è arrivata in attesa, cioè questa chiamata è arrivata mentre stavamo finendo di fare il disco, quindi anche qui sicuramente molti avranno pensato a un pasticciaccio da geniacci del marketing. Non è assolutamente andata così, stavamo finendo di mixare il disco e tutto ci aspettavamo meno che riaccadesse questo, anzi è arrivata a romperci abbastanza le uova nel paniere in termini organizzativi, perché ovviamente avevamo pianificato, come normale che fosse, no, l'uscita del disco, la promozione, le date e tutto il resto. È arrivata questa bomba a complicare non poco il tutto, però penso che quest'anno di riflessione lo abbia portato a una scelta molto più lucida e avrà comunque ovviamente tutto il nostro supporto. E questi erano gli After Hours, erano in particolare Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo, Folfirio Folfox, il loro album pazzesco. Appunto, si parlerà tantissimo di Manuel Agnelli perché sarà uno dei prossimi giudici di X Factor, ma intanto ascoltatevi e godetevi questo album che è veramente pazzesco. Noi ci ritroviamo tra pochissimo perché giornale radio delle 17, ma poi c'è la terza ora in diretta del Sabato del Villaggio. Ci cambiamo d'auto sempre qui dal Parco Valentino, dal Salone dell'Auto di Torino, e sarà il momento di RadioTube.